prendo in giro. Scusami tanto se sorrido. Il cielo è grigio, poi si sta male. Laggiù si spara per le strade. Vuoi un consiglio? Tieniti fuori. Mandaci solo i genitori. Ma poi al sud, tu che vai? Stai qui a Milano, laggiù non piove mai. Ma poi al sud, tu chi sei? C'è solo grano, e poi così lontano. Senza parole, senza parole. Sono dei ladri e ne ho le prove. L'ha detto Rico, che poi è tuo amico. L'ha detto alla televisione. Ciascun di loro tira a campare. Nessuno vuole lavorare. Si dice in giro, si dice in giro. Niente saluti né un sorriso. Ma poi al sud, tu che fai? Sai qui a Milano, laggiù non piove mai. Ma poi al sud, tu chi sei? C'è solo grano, e poi così lontano. C'è tanto sole e guai, ma poco calore, lo sai. E ho sentito che non si leva mai. E ognuno pensa agli affari suoi. Non capirai nemmeno una parola, nulla vedrai, ed acqua in bocca. Sole guai, ma poco calore, lo sai.